Sono le 15:38 minuti e 39 in questo momento, siete su Radio Popolare e io sono Matteo Villaci. Per l'appuntamento di WH, come al solito il sabato, oggi bisognerà aspettare un po'. Andiamo invece a collegarci immediatamente con Piazza Duca d'Aosta, dove ci sono Roberto Feste e Eleonora Dall'Ovo, per farci raccontare un po' la partenza di questo Pride di Milano. Ci siete, Eleonora e Roberto? Ci siamo qui. Roberto è qui con me di fronte con una bellissima camicia a maniche lunghe. Io con un dettaglio di... È importante, la mise è importante. Un vestito voglio dirlo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, proprio per rompere ogni stereotipo di genere, la nostra Lucy Van Pelt della redazione dell'Altro Martedì. E ce l'ho fatta a portarlo fino a qua, questo pulmino meraviglioso. Allora, tu puoi sicuramente dire che il pulmino dell'Altro Martedì, o meglio di Radio Popolare, è nella posizione A32. Diciamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che ci possono raggiungere, e diciamo che il Pride tra 20 minuti partirà, Roberto. Sì, allora parte tra 20 minuti circa. Vi racconto un po' qualcosa. Io l'ho fatta da casa in metropolitana, sono arrivato. Ecco, devo dire che sono rimasto molto sorpreso, piacevolmente sorpreso, perché la metropolitana era piena, zeppa di persone. Non ricordo un altro Pride, almeno in tempi recenti, in cui appunto ci fosse un afflusso di persone che arrivavano, tra l'altro, così presto qui all'appuntamento. Ricordo in Piazza Duca d'Aosta. Ovviamente questo è un Pride anche particolare, perché arriva subito dopo la conferma, l'elezione di un governo Lega 5 Stelle, non particolarmente, almeno alcuni settori di esso non particolarmente aperti alle tematiche, a quelle dei diritti. C'è un ministro che ha detto che per lui le famiglie sono soltanto quelle eterosessuali, e oggi qui alla Gay Pride di Milano l'apertura è proprio delle famiglie arcobaleno. Bene, in contemporanea a Milano ci sono altri tre Pride, sono il Pompei Pride, il Perugia Pride, Padova Pride. Ricordiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che sono 20-30 Pride sparsi per tutto lo stivale, da praticamente fine maggio fino a settembre, ed è qui con me invece Leonardo Meda del coordinamento Pride di Milano, che ci vuole raccontare innanzitutto lo slogan, che significato ha lo slogan di questo Pride, che è diverso da tutti gli altri Pride italiani, che è civili ma non abbastanza. Ciao Leonardo. Ciao a tutti. Allora, cioè, civili ma non abbastanza, anche perché è un valore plurimo, può avere più valori, in primis per quello che il primo che si può intendere, ovvero quello dell'andare oltre, quello che è stata la legge Cirinnà, che ha rivoluzionato il movimento, ma che assolutamente non è abbastanza. Il nostro progetto come attivisti, come movimento arcobaleno, è quello del matrimonio egualitario, ma ci viene anche non abbastanza per tutto quello che riguarda il discorso delle immigrazioni, il discorso della famosa legge per il decoro, per tutto questo concetto di civiltà alla quale forse non siamo ancora adatti e forse non andremo mai come vorrebbero alcuni. Il concetto di civiltà, secondo me, il Pride è rivoluzionario e non potrà essere una rivoluzione civile senza l'occhio di Magistris o altri. Ecco, allora ho una domanda. Allora, l'anno prossimo sono i 50 anni di enorme, no? nel campo. Però quest'anno in particolare, dopo quello che è successo, che sta anche in qualche modo, certo, succedendo, voi come attivisti sentite un po' più soli, cioè sentite come di non avere, come dire, degli interlocutori, oppure le vicende restano? Ecco, il collegamento è nettamente disturbato, quindi riprendiamo la linea da via Ollearo per capire se si riesce a sistemare un pochino il collegamento. Non abbiamo ancora tantissimo tempo perché a breve riprenderemo la linea con WH. C'è da dire però, vi ricordo che ci si ricollegherà nuovamente con il Pride immediatamente dopo, quindi a partire dalle 17 per una diretta più estesa. Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento. Ci sentite? Ecco. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì, è molto è molto disturbata, allora, ancora. Okay. Facciamo, vai, vai, facciamo finire. Appunto, da quel, dall'aspetto del noi andiamo avanti, ma resta il fatto che nel momento in cui ci sono così tante difficoltà, forse è il momento che si compatti e che porti avanti ancora più unito certe le nostre principali stanze. Pronto? Eccoci. Sì, siamo ok. Siamo di nuovo in diretta da Piazza Duca d'Orso. No, raga, mi dispiace. Eleonora, scusate, Roberto, non si sente, non si riesce a gestire il collegamento in questo momento. Speriamo appunto di recuperarlo in una qualità migliore. Dalle 5 in poi vi restituiremo la parola. Appunto, in questo momento è purtroppo davvero insostenibile a livello tecnico il collegamento. Vi ringraziamo in quanto inviati, ci si sente subito dopo. Adesso però cominciamo con WH. A lot of sixes in here tonight. Yeah. Yeah. Man, you better come back with some money. Hey, 10 of us, we move in as one. I'm so proud of who I become. You might think I'm taking some lumps. Only if we talking about sums. Yeah. Intentions are pure. They cannot tell me relax. My mentions are jokes. But they never give me the facts. This isn't that. Can't be ignoring the stats. Based off of that. They gotta run me the max. They gotta run me the max. They gotta double the racks. Dad is fed up for real. But they didn't come with the slaps. When I heard the shit, I was skipping through that. If I get a trip and there's no coming back. I don't understand. These niggas gotta adapt. You know where I'm at. I put the six on the map. The shorty was bent, she wanted a vent. I promise it fell in my lap. My money is young, my problems are old. I promise I'm bridging the gap. You know what I'm saying? Hey, hey, yeah. You know what I'm saying? Niggas provoke, this shit ain't a joke, man. Nobody playing. He's at the top, then he's at the top, but nobody staying. These niggas around, but they ain't around. You know what I'm saying? Say that they down when they should've down. You know what I'm saying? Yeah. You know what I'm saying? Hey. Hey. Yeah. You know what I'm saying? Y'all. Get close enough, the hoe smell like a kilo still. First album 26, I ain't need no deal. Already a hood legend, I ain't need no shine. First rollie flooded out, I ain't see no time. Whoa. Stand up niggas, we only ducking indictments. Doughboys, off-white, looking like soft white on them. You know what I'm saying? We in the building, we came for a billion, ain't nobody playing. Live every word that I'm rapping. Say I lost 90 bricks and it happened. You probably wouldn't believe everything that you're seeing right now if it wasn't live action. I ain't on the gram. They record who I am. God to these dope boys. How do you not be a whole fan? I'm what me should've been. I'm what Supreme didn't become. If Alpo didn't snitch, niggas would be like Young. I got your president tweeting. I won't even meet with him. Y'all kill X, let's end him and live. Streets is done. You know what I'm saying? Hey. Hey. Yeah. You know what I'm saying? E niente, intanto sarà tipo un mese che WH non va in onda, quindi bentornati a tutti. Bentornati ragazzi. Matteo e Sam in onda oggi per l'ultima puntata, perché si torna per le cose importanti. Tristezza. Della stagione, tristezza. Molta tristezza, per favore vai via. Però iniziamo con, cioè il pezzo tamarro di oggi che ci hai portato è Drake, perché quando esce un disco di Drake tu impazzisci secco, cioè vai. Beh, di l'ho testa. Pubblicato io, quindi. L'hai pubblicato tu, esatto, tu sei il sosia ufficiale di Drake, quindi abbiamo cominciato così. Talk la puntata up. Di oggi, che abbiamo detto essere l'ultima, e sarà una puntata speciale perché abbiamo ospiti, ma abbiamo doppi ospiti. Abbiamo oggi. Doppi ospiti oggi. E che doppi ospiti? Abbiamo. Partiremo con Luque. Ah, lo spoileriamo subito? Eh certo, tanto siamo qua, cioè ormai. Allora, atmosfera. Oh, Luque, vabbè. Luque, l'ho detto. E nella seconda parte, nella. Sua parte, santità. Sua santità Marrakesh. Oh. Perché vedi, se tu quando esce un disco di Drake vai giù di testa, io quando esce una un roba di Marra. Che poi ma a te manca, capito? Ancora un po' prima che esca il disco di Marra. No, certo, però è uscita. Cioè, adesso per farti capire, è uscita la riedizione di un disco di 10 anni fa, da vecchio quale sono e da baronese quale sono, puoi capire che è stata un'intervista importante di cui trovate già il video fuori su YouTube, ma ne sentiremo un bel estratto nella seconda parte della puntata di oggi. Sam, direi che gli ingredienti ci sono tutti, partiamo. Scendo giù al club, situazione già vista. Becco due tipe, sembra che ci stanno. Faccio il brillante, mando due bocce di cristal. Le verso alle tipe in bicchieri di cristal. Una si chiama Hanna con l'H, l'altra si chiama Deborah con l'H. Mi sa che se la serata non mi paga, stasera mi faccio la doppia H. Doppia H. Doppia H. Doppia H. Mi sa che mi faccio la doppia H. Ultima puntata di doppia H di questa stagione ricchissima, che ha dato una bella sterzata a livello di pop sia internazionale che nazionale, e noi ve l'abbiamo portato nelle casette per diversi tanti mesi. Adesso è ora anche di andare un pochino in vacanza, ma abbiamo ancora tante sorprese di cui parlarvi. Del resto la stagione non è finita, manca ancora un'ora abbondante. Finiamo alle 17, e quindi come fare a contattarci in quest'ora? Intanto devo dirlo io, non hai davanti però allora 331-6214013 per i vostri sms o telegram. Bravo. Oppure ci scrivete su Facebook, Instagram, trovate tutto scrivendo doppia H scritto per esteso ACCA. Esatto, hai visto che mi sono ricordato i contatti anche senza anche il numero di telefono, che è il più complicato tra i contatti, perché uno no, quante cifre sono? Parecchie. Bravo, la tua memoria sta migliorando. Nonostante che tu ormai stai diventando anziano, cos'hai? Ormai sono a un passo dalla fossa. Dallo schifo sei. Quanti anni hai, Sam? Vogliamo ufficializzare quelli ufficiali o quelli ufficiali? Prima tu, dai. Ma cagare. Allora, chiudiamo questa parentesi sulla nostra età anagrafica e veniamo invece all'uscita di Drake. All'uscita proprio. Bene, sono uscite tante cose nel periodo non collegato, visto che è un mese che non andiamo in onda, ed è uscito tipo Nas su produzione Kanye West. Uh-huh. Abbiamo avuto la fortuna di poter parlare di Pusha T. Del loro dissing. Esatto. E alla fine è uscito Drake. Un disco assurdo. Un disco dire incredibile, qualcosa. Ragazzi. Uscito ieri, 29 giugno, e si intitola Scorpion ed è diviso in due parti, come nei vecchi vinili, no? Tu ne sai qualcosa. Ma non ho mai avuto un giradischi, non sono così vecchio. Tu avevi vinili, ma non i giradischi. Certo, perché non erano ancora stati inventati. Cosa? Ma i giradischi? No, no, i giradischi, vinili li avevo. Cosa quindi lato A e lato B. Si diceva ed è stato confermato dall'uscita che il lato A è la parte rap di Drake, infatti nel lato A è contenuto Talk Up, che ci siamo ascoltati prima della sigla featuring Jay-Z, e ragazzi, una bomba incredibile. Mentre nel lato B la parte R&B di Drake, un po' dicevamo nel fuori onda, come se fosse un Chris Brown esatto. di turno, no? Che Chris Brown arriva dal rap, dall'hip hop e passa poi all'R&B, mentre invece Drake vuole mantenere entrambe le sue identità. Tu cosa ne pensi, Matteo? Che secondo me lo fa con una, non so, con delle capacità pazzesche, porta entrambe le cose a un livello molto alto, anche molto personale, tra dicevamo l'altro, no? Che è un come si dice, un game changer, cioè esatto. una nuova era, cioè Drake porta la novità, porta la freschezza, porta Scorpion. Scorpion era molto atteso, era stato annunciato mesi fa, noi abbiamo seguito la nascita sui nostri social di questo capolavoro. Recuperatelo, perché tra l'altro è molto è impossibile non poterlo recuperare. Se avete Spotify ve lo butta addosso appena lo aprite, quindi... Non so se hai notato, aprendo Spotify, nella prima pagina, a parte che hai un mega billboard con scritto "uscito un nuovo disco di Drake", bella, le playlist consigliate sotto sono tutte playlist che hanno Drake in copertina, tipo musiche da ascoltare in macchina e c'è Drake sulla Ferrari, musiche da ascoltare in doccia, c'è Drake in doccia, no, non c'è Drake in doccia, no, però meno hai male. Capito cosa di cosa sto parlando? Sì, no, no? Certo. È assolutamente super consigliato. Io a questo punto direi che a fine puntata voi vi andate ad ascoltare il disco, se ancora non l'avete fatto, vergogna. Adesso noi invece, come per annunciato, andiamo ad ascoltarci la prima delle interviste che abbiamo raccolto nel periodo non collegato. Abbiamo Luque. Abbiamo Luque, che è appena uscito con Potere, il nuovo disco, è uscito anche la Glass of Rap, per cui andate a vedervi, un'altra intervista inedita, no, non è ancora uscito. Non è ancora uscito, uscirà. Però l'ho anticipato, uscirà la Glass of Rap, che è un'intervista del tutto inedita, quindi questa ascoltatevela, e intanto ci ascoltiamo Torna da me, primo singolo estratto. Ehi. Bagnarsi le labbra con baci che dicono dammene ancora. Sono passati dei mesi ma sembra come fosse ora. Con te vicino la vita ogni giorno inizia un'altra volta. Eri speciale perché eri uguale a me. Ti abbracciavi come ti salvassi dalla solitudine. E stavi immobile come se fossi colpita da un fulmine. Mano nella mano per strada in un mondo che è pieno di ruggine. Ti ho dato me stesso perché il mio istinto non sbaglia mai. Lui mi disse tranquillo, lei non ti tradirà mai. Lui mi disse tranquillo, lei non andrà via mai. Lei viene da dove tu vieni e lo sai che ti capirà. Sì. Se gli altri non odiano vuol dire che qualcosa non va. Ma no, questa volta no, no, no. Sono io al telefono e lo so. Che non sei felice, io lo so. Lui non è lì con te. Torna da me, torna da me, torna da me, non respiro più. Torna da me, torna da me, torna da me, non mentirò più. Lasciarsi guardarsi negli occhi mentre si cammina all'indietro. Quegli occhi che dicono cose di te che tu non sai nemmeno. Io che mi son quasi rotto la mano per un pugno nel muro. Non ti amo più e non so come dirtelo. Dopo la rabbia noi ci stringevamo più forte di prima. Io che morivo al solo pensiero di averti ferita. Abbiamo dimenticato che l'amore è solo complicità. Non è vero che se soffri ami di più. Mi hanno detto chiamare, dare il meglio di sé. Lasciarti volare per poggiarti su di me. Sono stanco di stracciare foto che non rifaremo mai. E di te che approfittavi della mia fragilità. Ma no, dici che hai viaggiato un po'. E che sei cresciuta ma non so. Sai tornare indietro non si può. Ora ho lei qui con me. Torna da me, torna da me, torna da me, non respiro più. Torna da me, torna da me, torna da me, non mentirò più. Torna da me, A WH oggi torna Luque ed è un graditissimo ritorno, bentornato. Grazie. È un bel po' che non ci vediamo, sì. Forse dei tempi di L2, per cui c'è... Sì, mi sembra per l'altro disco non... È vero, ci siamo, ci siamo persi un disco, un po' un peccato perché in realtà noi ti seguiamo da una vita e insomma... È passato un po' troppo tempo, diciamo. No, andiamo a recuperare, perché insomma le cose sono cambiate intorno a noi, sono cambiate per quanto riguarda ovviamente la tua musica, ma è cambiato l'ambiente, è cambiato tutto. Tu vivi a Londra da un po'. No, in realtà, guarda, dopo Malamore mi sono trasferito. Allora, vedi a perdersi i passaggi, queste cose sono importanti. Sì, ma perché abbiamo troppo da fare, insomma. Stavo per chiederti perché. Tra serate, concerti, abbiamo fatto quasi 200 concerti in 2 anni, quindi... Com'era immergersi in Italia dopo aver vissuto a Londra, anche a livello proprio artistico, di ascolti? A livello artistico adesso non è un periodo poi così male, ti dico la verità, cioè comunque c'è fermento, anche se non è che mi piace proprio tutto quello che esce, anzi, però comunque c'è fermento, c'è movimento, ci sono tante cose da fare, sono tanti concerti da fare, quindi comunque la situazione è ottimale per chi fa musica, secondo me, a un certo livello. Per quanto riguarda poi vivere in Italia, io non me la vivo come, fortunatamente, come se la vive magari un altro ragazzo, perché faccio una vita di diversa, cioè non è che vado alle poste a spedire, cioè capito? Certo, non mi la vivo, non vado al comune, cioè non evito tutti quei passaggi, insomma. Certo, da italiano medio. Esatto, diciamo. E quindi mi limito a stare a casa e ho la mia routine che comunque non è come se non vivessi, vivo qua, ma è come se non vivessi qua. Certo, vivo la nazione in quel senso là. E dicevamo invece è un momento interessante da un punto di vista musicale. Tu hai attraversato tutta una fase in cui il rap è arrivato ad avere una certa importanza, dopodiché si è anche stabilizzato, che era una cosa di cui forse c'era un po' il timore che non accadesse, no? Che la bolla scoppiasse. Cos'è che non ti saresti aspettato di quello che c'è oggi nella scena italiana? Non lo so. C'è qualcosa che ti stupisce? Dici, cazzo, non pensavo saremmo arrivati a questa cosa. Stupisce la stupidità, onestamente. Mi stupisce il trash che vince sempre ogni anno il campionato. Quello mi stupisce. Cioè, mi stupisce fino a un certo punto, perché comunque è un po' da sempre che l'italiano medio è sinonimo di stupidità e di non prendersi mai sul serio, certo, di pagliacci, diciamo. Però che si fosse arrivato a quello che siamo oggi forse non l'avrei immaginato, perché forse sono troppo io un sognatore, forse non sono abbastanza realista, però il fatto che il rap si sia stabilizzato e che adesso sia un genere veramente, diciamo, forse predominante, forse quello l'avevamo capito già qualche anno fa. Io, cioè, una volta che ho visto l'attaccamento dei ragazzi a questo genere, ho capito che sarebbe durato, non sarebbe tramontato come una volta. Eh sì, perché c'era anche questo brutto precedente in cui la prima Golden Age di fatto si era un po' autoaffossata. Tu invece torni intanto col singolo Torna da me e poi col disco Potere. Sì. Io sono sempre curioso di capire che tipo di lavoro ci sia dietro un disco. Tu, noi ti si segue sempre, io ho apprezzato tantissimo anche il tuo pezzo nel disco di Skinny, che secondo me è uno dei, pezzi intanto più riusciti del disco, ma sì, poi concordo. Anche tra i tuoi pezzi uno di quelli che preferisco. Sì, è vero. Ti vorrei quasi chiedere come nasce un pezzo così, nel senso c'è anche il flow, l'ho scritto e registrato in tre ore in studio da lui. Pazzesco. Pazzesco. Nasce dando spazio all'istinto e basta. Perché ti dico, io il flow già ce l'avevo registrato, certo, in una nota vocale sul cellulare, perché Madonna. Skinny mi mandò il beat un po' di tempo fa, però io lavoravo al disco e quindi l'ho misi un po' da parte. Poi insomma mi pare che rimanda il disco, quindi avendo un po' più di tempo mi trovai a Milano una sera, andammo in studio e dissi vabbè dai te lo faccio adesso, perché magari se non te lo faccio mo non te lo faccio più. E non credevo di poterlo fare in una sera, però magari, cioè, buttai a terra la prima strofa, mi dissi vai, proviamo a fare pure la seconda, e lo facemmo in una notte. Però è molto istintivo, sono divertito, capito? Si sente, ed è anche quasi tra il divertente anche l'ascolto, non stupidamente, e l'aggressivo, qualcosa di molto ovvio. Vabbè, ma quello è il mio stile, bello, diciamo. Bello, molto bello. Cosa dobbiamo aspettarci invece da Potere? Che lavoro c'è dietro? Di cosa ti sei nutrito in questo periodo? Allora, Potere riprende un poco quello che è stato fatto con Malamore, nel senso che è un disco un po' come quello là, diviso in due, vai, ci stanno dei pezzi aggressivi e poi ci sono molti pezzi riflessivi che parlano un po' di vita, un po' di relazione, un po' di d'amore, un po' di tutto. La differenza ovviamente è un po' nello stile mio, perché come hai notato anche dal mio fianco, il pezzo di Skin, io comunque ho lavorato molto sull'evoluzione del flow, sulla melodia, infatti canto molto di più in questo disco. Lo stile è le atmosfere sono simili, è un po' un'evoluzione di Malamore, però io come flow e come voce sono un po' diverso rispetto a due anni fa. Questa è la differenza stilistica. E poi come argomenti io sto portando avanti questo argomento, diciamo, del potere, che lo devo spiegare perché può sembrare un po' così arrogante e banale, però il discorso è che potere ha due significati: il verbo potere, poter fare qualcosa, poter diventare chi vuoi, poter anche buttare a terra delle barriere, poter dimostrare agli altri che non hanno mai creduto in te, che sbagliavano, poter realizzare tutto quello che io avevo dentro, avevo in testa, e anche un po' di potere dal punto di vista, proprio parlando della scena, io sento di dovermi di imporre un pochino di più, perché sento che sia arrivato pure il momento che mi venga riconosciuto, diciamo, quello che io rappresento in questa scena italiana, quello che sono, e se non viene dagli altri sono costretto a farlo da solo. E quindi per un discorso non egoistico, però un discorso molto personale, io credo che io e poi di conseguenza tutto il mio movimento, i miei artisti che produrrò, il mio team di produttori debbano acquistare più potere in questa scena e essere rispettati di più e messi su una posizione di rilievo rispetto ad altri. E infatti, tra l'altro, anche a livello di produttori c'è un discorso molto interessante nel disco, si alternano parecchi produttori, sì. Da Nazzo che comunque sì, no? Diciamo che al 90% è il mio team, poi ovviamente io prendo sempre anche, diciamo, dei beat da altri produttori che non sono, per esempio Nazzo, io vorrei tanto che entrasse nel nostro team. Ovviamente il 90% del disco è prodotto da D-Ross, da Startuffo, certo. Con cui, diciamo, lavorano in team, lavorano insieme. E poi Ferro, che comunque è un produttore che ho scoperto io qualche anno fa quando abbiamo fatto L2, sì. E poi è entrato in Roccia Music e quindi poi si è trovato a produrre Scuderoni, delle belle hit. E quindi lui non può mancare mai. E poi ovviamente di nuovi ci stanno Young Snap, che appartiene a Dogozilla, Nazzo appunto, è un ragazzo americano di Boston, si chiama Ian Tash. E poi ovviamente Gino, con cui facciamo musica, certo. Da tempo di Ego Sang, quindi certo. Il mio team più qualcuno nuovo, diciamo. Esatto. Insomma, dobbiamo aspettarci delle super sonorità da questo disco. Guarda, quando entriamo in studio l'obiettivo è quello là. L'obiettivo è quello di creare comunque un disco che abbia un sound diverso dagli altri e che mi contraddistingua. Quindi comunque io non vado mai per il trend. Cioè, a me piace tutto, dalla trap al classic, non è che. Però non posso fare un disco che suoni tutto uguale dalla prima all'ultima traccia, perché non sono io. E cerchiamo sempre un sound diverso, che comunque negli anni, voi o non voi, è stato un po' copiato e cercato, diciamo, di emulato un po' dagli altri. E tu consideri che dopo che ho lanciato, comunque che D-Ross ha iniziato a produrre i miei dischi, l'hanno chiamato tutti. E certo. Quindi certo, comunque sì. Il fatto di distinguersi e creare un sound diverso, poi il successo di questo lavoro si vede quando gli altri cercano di averlo nelle quando pratiche, esatto capite? Quando capisci che effettivamente hai aperto una strada anche stilisticamente, sì. E voglio che questa cosa mi venga riconosciuta. Sei la cosa più bella che abbia mai visto, i tuoi capelli ricci mi stanno coprendo il viso, prendimi per mano, portami in paradiso, non abbiamo età, abbiamo già vinto. E tu sei la cosa più bella che abbia mai visto, i tuoi capelli ricci mi stanno coprendo il viso, prendimi per mano, portami in paradiso, non abbiamo età, abbiamo già vinto. E invece di andare piano sono partito in quarta, ho scritto e stampatello, oggi sposi sopra la targa. Hai detto stai correndo troppo, dimmi credi nel karma, ho detto sì mentre controllavo se avevi un tanga. Io di solito le spezzo che diventano magre, che me le prendo figlie e me le trovo da madre, ma ogni passo verso me è un motivo per cambiare, mi fa sentire come se ti aspettassi all'altare. Voglio entrare nel tuo mondo senza che me lo chiedi, per rapirti con discorsi tipo credi agli alieni, per conoscerti davvero mantenendo il mistero, per scriverti sul cuore e leggerti nel pensiero. Con te io torno bambino, io ti voglio vicino, sei l'unica con cui rido, l'unica di cui mi fido, giuro che ti porterò con me ovunque sia, più là dell'anarchia, più là della fantasia. Tu sei la cosa più bella che abbia mai visto, i tuoi capelli ricci mi stanno coprendo il viso, prendimi per mano, portami in paradiso, non abbiamo età, abbiamo già vinto. E tu sei la cosa più bella che abbia mai visto, i tuoi capelli ricci mi stanno coprendo il viso, prendimi per mano, portami in paradiso, non abbiamo età, abbiamo già vinto. E mi fai sentire come se non avessi ex, come se non avessi mai fatto sex. Dai facciamolo qui davanti a tutti, imbarazziamo il condominio di notte sul balconcino. E poi al cinema sulla scena dell'assassinio, durate le mie interviste per tutte le femministe. E se il mio disco nuovo andrà forte come vuoi, vinceremo meglio performance agli MTV Awards. Brividi sulla pelle quando ascoltiamo i Doors, scriviamoci lungo la schiena, the world is yours. Mille domande per la stessa risposta, scusami ma per me un po' come la prima volta. Sei la mia marijuana, tu mi calmi, tu mi fai viaggiare, sei il mio nirvana, ma senza le chitarre sei una lettera d'amore scritta con il sangue. Svengo quando a cavalli le gambe. Tu sei la cosa più bella che abbia mai visto, i tuoi capelli ricci mi stanno coprendo il viso, prendimi per mano, portami in paradiso, non abbiamo età, abbiamo già vinto. E tu sei la cosa più bella che abbia mai visto, i tuoi capelli ricci mi stanno coprendo il viso, prendimi per mano, portami in paradiso, non abbiamo età, abbiamo già vinto. E un giorno tu lo vedrai. capirai che non c'è un altro come me. Quel giorno io ti dirò se non ce n'è un altro come me. E tu mi risponderai, non ce n'è un'altra come me. Tu sei la cosa più bella che abbia mai visto. I tuoi capelli ricci mi stanno coprendo il viso. Prendimi per mano, portami in paradiso. Non abbiamo età, abbiamo già vinto. Tu sei la cosa più bella che abbia mai visto. I tuoi capelli ricci mi stanno coprendo il viso. Prendimi per mano, portami in paradiso. Non abbiamo età, abbiamo già vinto. Secondo me sono tanti i passaggi che dovrebbero esserti riconosciuti dall'inizio davvero del tuo percorso, perché di strade ne hai aperte tante, anche a livello tematico, a livello stilistico, a livello quasi territoriale, se vogliamo, anche all'inizio, no? Certo. Ho in mente già dei tempi dei Cosang, le collaborazioni, il portare sul tuo artisti come Marrakesh, che invece si stavano già affermando molto, portarli proprio sul tuo territorio. Cosa sopravvive dell'esperienza Cosang in te adesso che stilisticamente sei così evoluto? Perché l'evoluzione si vede molto. Sì, sono contento che si veda perché non sono un ragazzino. Certo. Io mi sento un ragazzino, però non lo sono, ho tanti anni comunque, tanti dischi alle non spalle. Non toccare questo tasto che prese in coetanei. Questa cosa dell'età è un mito da per carità, sfadare, soprattutto nel rap, perché sì, ne parlavamo con Marra l'altro giorno, finalmente si sta imponendo anche una generazione, cioè sta resistendo una generazione. No, guarda, ma secondo me non c'è un discorso neanche da fare, cioè ci sono i rocker, cioè ci sta, vero. Cioè i Rolling Stone ancora oggi sono, cioè perché saltano rapper, come dei grilli, dopo i 30 anni devono essere considerati vecchi, io non lo capisco. Ah, non lo so, però molti dei tuoi colleghi per anni l'hanno fatto. Perché nella loro posizione di emergenti conveniva, certo. Perché gli dava forza, sentirsi giovane e forti ti dà forza, però non è poi, diciamo, non è la realtà, perché poi non puoi sentirti più forte di me perché hai 10 anni in meno, capisci? Certo. È la musica che deve parlare, altrimenti tra 10 anni non sei più niente. No, ma infatti la maggior parte, dimmi, ci sono pochi nomi che sono sopravvissuti e sono competitivi superati 30 anni. No, è vero. Quindi per me questo è un tabù da sfatare. Sì. Che qual era la domanda, scusami? La domanda era cosa di quell'esperienza di Cosang, nonostante tutto il progresso tecnico, le tue scelte fatte, cosa ti porti ancora dietro, anche a livello personale? Ma io mi porto dietro quello fa parte della mia personalità. La musica è una conseguenza, certo, di quello che io sono. Non credo di essere cambiato così tanto, stilisticamente sì, però come persona no. Cioè mi porto dietro forse l'aggressività, non lo so, mi porto dietro la grinta, la determinazione, anche un po' non lo so, questo credo, un'attitudine mi porto dietro. Certo. Questo disco nasce da un percorso compiuto tutto in Italia o c'è ancora dell'Inghilterra a livello magari di esperienze, di ascolti, di... Guarda, io ti dico, è un annetto che mi divido tra New York e Napoli. Ah, no, per cui c'è più America quasi. Cioè, sì. Sì, vabbè, l'America c'è sempre stata, che ho sempre ascoltato musica americana. Sì, sì. Londra mi ha dato tanto sul piano personale, non tanto poi artistico. Anche artisticamente però, perché su alcune cose gli inglesi sono avanti. Però la maggior parte di questo disco è stato fatto in Italia. Per la maggior parte, sì. Anche concepito proprio, cioè scritto in Italia. Sì, scritto per la maggiore, sì. Alcuni ritornelli li ho scritti a New York, alcune strofe le ho fatte là. Per il resto poi l'ho completato qua, a Napoli. Sì, sì. E invece a livello di ascolti oggi, fuori dall'Italia, visto che anche in un momento in cui in Italia il rap sta cambiando tanto e sta diciamo inserendo all'interno del suo recinto tante cose diverse, in America ormai le cose stanno davvero diventando molto complesse anche a livello stilistico, sonoro. Cos'è che ti piace, che ti sta convincendo delle tante cose anche che stanno uscendo adesso, tu che sei un ascoltatore molto attento? Guarda, ti dico poco, onestamente. Ci sono delle cose che mi piacciono qua e là, ma che mi prendono veramente poche. Ne abbiamo parlato fuori onda di XXXTentacion, che per me era di là dei guai che aveva fatto, certo, diciamo, nella sua vita privata, però era forse l'unico della sua generazione che non aveva paura di essere diverso, sì, e di comunicare qualcosa nei pezzi. Comunque a me piaceva tantissimo, è stato un punto di riferimento la sua morte, diciamo, è stato un colpo per me, perché era una cosa inaspettata e poi non capisco perché proprio a lui, cioè che era uno che poteva veramente dare tanto, cioè ha fatto due dischi, poca roba, ma già era arrivato a tantissime persone, infatti forse era l'unico americano che in Italia faceva oro, cioè, sì, anche qua, è vero anche faceva, qua, ma però. Anche perché tirava fuori qualcosa di incredibilmente diverso, anche io sono per la diversità, io sono per le personalità forti che si distinguono, non sono per essere tutti uguali come sta succedendo adesso, che è un po' il rischio forse, no? No, di non è il rischio, quello è la realtà, la realtà che sta succedendo adesso. Sì. Allora, un disco per riprendere una propria posizione all'interno della scena, un disco in cui perché io ce l'ho sempre avuto, per rafforzare la propria posizione. Come si sceglie in un disco del genere tutto il discorso featuring? Cioè, immagino che volendo tu uscire molto come Luque, perché è giusto che tu ti prenda quello che ti spetta, sia molto attenta alla scelta delle collaborazioni, no? Sì, guarda, sarò onesto con te, io avrei voluto altre persone su questo disco. Infatti questo disco mi ha aperto un po' gli occhi su questa scena giovane che c'è, nuova, dove basta fare le views su YouTube per sentirti un dio, no? E non sto qua a fare nomi, figurati, certo, sono felice di come siano andate le cose, però è un disco che ha creato dei nemici, se così possiamo diciamo definirli, che prima non avevo, e ne sono pure contento, perché questa cosa mi dà molta grinta, mi dà molta forza mi rende ancora più determinato di distruggere le carriere degli altri come ho dovuto fare già l'anno scorso e due anni fa, quando si sciolsero i Cosani, quando cercarono di boicottarmi un po' tutti a Napoli, poi vediamo che fine hanno fatto, e non penso che non fanno neanche da fare, e quindi questa è, io traggo sempre molta forza da queste cose qua. Avrei voluto altre persone, però è andata così, insomma. L'unico featuring un po' esterno dalla mia famiglia è Gue, no? Che sempre è forse l'unico che veramente una settimana dopo che gli mandi il pezzo ti manda la strofa. Sì. È un grande lavoratore, è una persona che mantiene la parola e è tutto. Quindi poi abbiamo comunque uno stile comune che ci abbastanza affiancabili, diciamo. Siamo molto affiancabili. Poi c'è Corrado Coco, che comunque è un artista grande. Che seguo da tempo, diciamo che tra virgolette quasi sono come una sorta di manager per lui, oltre che essere amico e business partner, e mi aspetto molto dal suo disco che uscirà dopo l'estate. E poi c'è Enzo Avitabile, insomma, certo, un altro, vabbè, e lui mi ha cresciuto, io era lo zio, cioè è lo zio di Antonio, quindi io lo conosco da più di 20 anni. E mi ricordo che la nostra prima intervista, caro Sam, te lo dico perché tu avevi 12 anni forse, però la nostra prima intervista nella chiusura col famoso pezzo Non Hip Hop che chiudiamo con cui chiudiamo l'intervista fu Enzo Avitabile, già da allora Pesta. Ma ci consigliasti Io stavo a New York, però ti ricordi? Sì, mi ricordo, via Skype. È incredibile, anche memoria, fighissimo. Torniamo un attimo a noi, torniamo al presente, proviamo a dare uno sguardo al futuro, perché secondo me una dei vantaggi di non avere più 20 anni è capire come le cose possono evolvere, avere l'esperienza, no? Quali sono le possibilità, secondo te, e lo chiedo a te non a caso, della scena italiana nei prossimi anni, e quali sono gli errori da non fare? Ma per i nuovi artisti, tu intendi? In generale, per il movimento. Allora, secondo me ci sarà una scrematura un po' naturale di questa scena. Secondo me rimarranno soltanto quelli validi veramente. E secondo me quest'anno sarà decisivo, perché si è visto dal successo enorme che ha avuto Noiz, che in una settimana ha fatto oro, comunque un artista duro che non usciva con un disco da molto tempo, è andato fortissimo e anche i live vanno bene. Uscirò io, uscirà Salmo credo quest'anno, Marra, Gue. Quest'anno escono un po' i grandi, no? Quelli che hanno un pochino qualche anno larghe, più, esatto. E secondo me riconfermeranno i numeri dei giovani, e questa cosa qua darà una sterzata, secondo me, decisiva, perché veramente Cani e Porci nel 2017 sono usciti, hanno fatto i numeri e hanno solamente inflazionato questa scena, questo genere, hanno fatto credere ai ragazzini che fare questa cosa sia facile. Cioè proprio scarsi al microfono che non vanno a tempo, oppure degli idioti che vogliono fare i simpatici, certo, che fanno questa corsa al personaggio, no? Hanno fatto credere ai ragazzini che fare questa roba sia facile, quindi tutti si buttano a fare, ma poi proprio senza nessuna con una conoscenza della cultura, senza, certo, nessuna esperienza, senza neanche nessun sacrificio, senza nelle ore in studio, cioè proprio, capito, basta che ti pitti i capelli o ti fai i cosi e ti vesti come un epete e puoi diventare rapper tra virgolette, no? Questa cosa qua secondo me verrà eliminata naturalmente, però perché poi alla fine, anche se fai qualche milione su YouTube, nella vita reale non hai un seguito vero, no? Certo. E quindi diciamo, secondo me questi qua tenderanno a scomparire e spero che rimangano quelli là che veramente sono forti, insomma. Allora, come al solito purtroppo le interviste volano quando abbiamo ospiti di un certo spessore. Mi piacerebbe uscire come al solito a fine intervista di nuovo da quello che è il nostro mondo, dall'hip hop, e capire se e cosa stai ascoltando adesso fuori, a livello di sonorità fuori dal rap. Per questo disco ho ascoltato molto rock fine anni 60. Ovviamente non sono un grandissimo esperto del genere, però io amo Janis Joplin, Doors, e ovviamente Nirvana. Insomma, tutta quella roba là, e poi, cioè, quando non ascolto hip hop ascolto molta musica soul, certo, blues, molto blues. Si rimane molto sulla black in qualche modo, assolutamente. Quindi per chiudere, ti chiederei come al solito di uscire un attimo dal nostro terreno che è quello dell'hip hop e di consigliarci un pezzo con cui chiudere questa intervista, che arrivi da un altro mondo. Cosa ci consigli oggi? Visto che già lo ha messo prima che durante questo disco ho ascoltato tantissimo rock, diciamo anni 60, a me uno dei pezzi dei Doors, Riders on the Storm, consiglierei quello là, è uno di quelli là che mi piaceva di più, che ho ascoltato moltissimo in macchina soprattutto. È perfetto, tra l'altro, assolutamente un disco da macchina, giustamente, Riders on the Storm. Questo è Riders on the Storm, questo era Luque, grazie mille, grazie e alla ragazzi. Prossima, in bocca al lupo per tutto. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends. I'll Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. A volte siamo super fortunati con i consigli non hip hop degli artisti che ospitiamo. Per esempio questa Riders on the Storm consigliataci da Luque, noi l'abbiamo lasciata quasi tutta. E sottolineo quasi perché è lunghissima. Nonostante qualcuno possa dire che è non molto radiofonica, come giustamente dicevamo con Luque in chiusura di intervista, questo è il pezzo perfetto per quando sei in automobile. Quindi la dedichiamo a tutti quelli che se la sono ascoltata, magari andando fuori città, visto che questo è un bel sabato di fine giugno e qualcuno ne approfitta per andarsene via. Se per caso siete imbottigliati da qualche parte, ringraziate Luque che vi ha permesso di ascoltarvi, di rilassarvi un po', di farvi un po' un viaggio anche a livello non proprio fisico con questa Riders on the Storm a chiudere l'intervista. Vi vogliamo ricordare che in questa ultima puntata della stagione di WH, nella seconda parte, ci sarà l'intervista a Marrakesh e che uscirà nella prossima settimana una Glass of Rap dedicato proprio a Luque, quindi con un'intervista totalmente inedita fatta davanti a un bicchiere di birra. Seguiteci quindi, seguite WH anche sul canale YouTube e su tutti i nostri contatti tipo Instagram, così per rimanere aggiornati. Su Instagram ci scrive Giacomo che non ci dice che non avrebbe ascoltato volentieri la nostra ultima puntata della stagione, ma purtroppo sta discutendo la laurea. In bocca al lupo Giacomo, ti consigliamo, e così ne approfittiamo per consigliarlo a tutti, il podcast. Siamo in diretta, siamo arrivati al momento della pubblicità, noi ci si sente subito dopo con l'intervista a Marrakesh, quindi state lì.